terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Primo giorno di viaggio e prima sera di avventure con relative conseguenze. Il sole, servitore puntualissimo di tutte le attività, era appena sorto e aveva appena incominciato a far luce sulla mattina del 13 maggio 1827, quando Mr. Samuel Pickwick sorse come un altro sole dai suoi sogni, spalancò la finestra della sua camera da letto e si affacciò a guardare il mondo sottostante. «Carrozza!» disse Mr. Pickwick. «Subito, signore!» gridò uno strano esemplare della razza umana con un giaccone di tela di sacco, un grembiule dello stesso tessuto e un numero inciso su una piastra appesa al collo che sembrava uscito dal catalogo di una collezione di rarità. Era il custode del posteggio. «Ecco, signore, avanti prima carrozza!» E quando il cocchiere della prima carrozza fu tirato fuori dalla bettola dove era andato a fumarsi la prima pipa, Mr. Pickwick e la sua valigia furono caricati sulla vettura. «Golden Cross!» disse Mr. Pickwick. «Ce n'è solo per uno scellino, Tommy!» esclamò di malumore il vetturino per informazione del suo amico custode, mentre la carrozza si avviava. «Quanti anni ha il suo cavallo, buon uomo?» chiese Mr. Pickwick, fregandosi il naso con lo scellino che aveva preparato per pagare. 42, rispose il vetturino, dandogli un'occhiata di sbieco. «Come?» esclamò Mr. Pickwick, già con la mano sul libretto degli appunti. Il vetturino ripeté la sua precedente affermazione. Mr. Pickwick guardò fissamente l'uomo in faccia, ma vedendolo restare impassibile, prese subito nota del fatto. «E quanto lo tenete attaccato ogni volta?» chiese Mr. Pickwick, desideroso di avere altre informazioni. «Due o tre settimane», rispose l'uomo. «Settimane», disse Mr. Pickwick sbalordito, e il libretto degli appunti ricomparve. «Lui vive a Pentonville, quella è casa sua», continuò tranquillamente il vetturino, «ma noi lo portiamo a casa di rado perché è troppo debole». «Perché è troppo debole?» ripeté Mr. Pickwick senza capire. «Sì, perché tutte le volte che lo stacchiamo dalla carrozza casca», continuò il vetturino, «ma quando è attaccato lo teniamo ben corto di briglia, lo bardiamo ben stretto fra le stanghe perché non possa cadere tanto facilmente, e poi abbiamo un paio di magnifiche ruote ben grandi che quando lui si muove gli corrono dietro e lui deve andare avanti, non potrebbe far diverso». Mr. Pickwick registrò ogni parola di questa spiegazione nel suo libriccino con l'idea di riferirla al circolo come un esempio della vitalità dei cavalli in situazioni particolarmente difficili. Aveva appena terminato di scrivere quando arrivarono a Golden Cross. Il vetturino saltò giù e Mr. Pickwick uscì. Mr. Tupman, Mr. Snodgrass e Mr. Winkle, che stavano aspettando ansiosamente l'arrivo del loro illustre capo, gli si affollarono intorno per salutarlo. «Ecco uno scellino», disse Mr. Pickwick allungando la moneta al vetturino. Ma quale fu lo stupore di quel dotto quando l'imprevedibile personaggio gettò la moneta sul marciapiede e chiese con espressioni molto colorite che gli fosse concesso il piacere di pagarsi a cazzotti. «Siete matto?» disse Mr. Snodgrass. «O ubriaco?» disse Mr. Winkle. «O tutte e due?» disse Mr. Tupman. «Sotto!» gridava il vetturino mulinando i pugni col ritmo di un orologio. «Sotto! Tutti e quattro!» Thank you. qui si ride!» gridò una mezza dozzina di cocchieri di piazza. «Forza, Sam!» e fecero cerchio intorno al gruppo contenti e soddisfatti. «Cosa c'è che non va, Sam?» chiese uno di quei gentiluomini in maniche di camicia di tela nera. «Cosa c'è?» rispose il vetturino. «Chiedili che cosa se ne fa del mio numero!» «Io non me ne faccio niente!» disse stupito Mr. Pickwick. «E allora perché l'avete preso?» chiese il vetturino. «Io non l'ho preso!» rispose indignato Mr. Pickwick. «Ma ci credete?» continuò il vetturino rivolgendosi alla folla. «Ci credete voi che una spia possa andarsene in giro nella carrozza di un galantuomo non solo per prendergli il numero, ma per segnarsi ogni parola che dice, se non basta?» Una luce si aprì davanti agli occhi di Mr. Pickwick. Si trattava del suo libriccino di appunti. «L'ha fatto davvero?» chiese un altro vetturino. «Sì!» rispose il primo. «E poi per accusarmi di percosse fa venire qua tre testimoni a guardare! Ma gliela faccio pagare, dovesse costarmi 6 mesi! Sotto!» E il vetturino scaraventò il suo cappello per terra con temerario disprezzo della sua stessa proprietà privata. Sbatté via con una manata gli occhiali di Mr. Pickwick. Proseguì l'attacco con un pugno nel naso di Mr. Pickwick, un secondo pugno nel petto di Mr. Pickwick, un terzo nell'occhio di Mr. Snodgrass e un quarto, per amore di varietà, nello stomaco di Mr. Tupman, per spostarsi poi saltellando in mezzo alla strada, tornare sul marciapiede e con un colpo finale togliere dal corpo di Mr. Winkle tutto il fiato di cui disponeva in quel momento. Il tutto in una mezza dozzina di secondi. «Non c'è una guardia!» disse Mr. Snodgrass. «Mettetegli sotto la pompa!» suggerì un venditore di frittelle. «Non la passerete liscia!» ansimò Mr. Pickwick. «Spie!» urlò la folla. «Sotto!» gridò ancora il vetturino, che aveva continuato a mulinare i pugni senza interruzione per tutto il tempo. Il resto della banda era rimasto spettatore passivo della scena, ma quando l'idea che i pickwickiani fossero spie si fu diffusa a sufficienza, tutti cominciarono a discutere con notevole interesse la convenienza di appoggiare la proposta del turbolento venditore di frittelle. E non si può prevedere quali atti di violenza le persone avrebbero potuto commettere se la baruffa non fosse stata inaspettatamente risolta dall'intervento di un nuovo venuto. «Che cosa succede?» disse un giovanotto alto e magro in giacca verde, uscito improvvisamente dalla stazione di posta. «Spie!» urlò di nuovo la folla. «Non è vero!» gridò Mr. Pickwick con un tono di voce che avrebbe convinto qualsiasi ascoltatore appassionato. «Non è vero, dite? Non è vero?» disse il giovanotto rivolgendosi a Mr. Pickwick e aprendosi la strada fra la folla col metodo infallibile di prendere a gomitate i suoi singoli componenti. Il dotto signore spiegò con poche parole affrettate come stavano le cose in realtà. «Venite con me, allora!» disse quello dalla giacca verde, tirandosi dietro Mr. Pickwick a viva forza e parlando ininterrottamente. «Voi, numero 924, prendete quella moneta e toglietevi di mezzo. Una persona per bene, lo conosco benissimo, piantatela di dire sciocchezze. Da questa parte, signore, dove sono i vostri amici? Un equivoco, naturalmente, o non ve la prendete, cose che succedono nelle migliori famiglie. Mai darsi per vinti, la fortuna è un po' in ribasso. Farlo arrestare, fargliela vedere, gli starebbe bene. Orfanti della malora!» E con una sfilza interminabile di queste frasette monche, dette con straordinaria volubilità, lo sconosciuto si diresse verso la sala d'aspetto dei viaggiatori, seguito da Mr. Pickwick e dai suoi discepoli. Thank you. Mentre i suoi tre compagni erano occupati a profondersi in ringraziamenti con la loro nuova conoscenza, Mr. Pickwick ebbe agio di esaminare il suo abbigliamento e il suo aspetto. Era più o meno di statura media, ma la sua magrezza e la lunghezza delle gambe lo facevano sembrare molto più alto. La giacca verde era stata un capo di vestiario elegante ai tempi in cui usava la coda di rondine, ma si vedeva bene che a quei tempi doveva avere adornato un uomo di statura più bassa, perché le maniche sbiadite e insudiciate quasi non arrivavano a coprirgli i polsi. La portava abbottonata fino al mento, col rischio di spaccarla da un momento all'altro sulla schiena. Un vecchio cravattone senza vestigia di colletto della camicia gli ornava il collo. I suoi striminziti calzoni neri mostravano qua e là zone più lucide, che parlavano di un lungo servizio, e i sottopiedi erano allacciati molto stretti a un paio di scarpe tutte toppe e risuolature, quasi per nascondere gli sporchi calzini bianchi, che tuttavia restavano chiaramente visibili. Lunghi capelli neri sfuggivano in negligenti ondulazioni da entrambi i lati di un vecchio cappello ammaccato, e qualche visione fuggevole dei suoi polsi nudi si poteva cogliere fra l'orlo dei guanti e i polsini della giacca. Aveva il viso affilato e sparuto, ma tutta la sua persona era pervasa da un'aria indescrivibile di divertita impudenza e di perfetta padronanza di sé. Questo era il personaggio che Mr. Pickwick fissava attraverso gli occhiali, per fortuna recuperati, e a cui rivolse in uno scelto eloquio, quando i suoi amici ebbero esaurito la loro vena, i più calorosi ringraziamenti per il soccorso ricevuto poco prima. «Cose da niente!» disse lo sconosciuto interrompendolo subito. «Non c'è bisogno, non è il caso. Bel tipo quel cocchiere, usava bene le sue mani. Ma se fossi io stato il vostro amico incacciatore, per bacco, botte nella testa, fuori combattimento, 4 e 4, 8, compreso quello delle frittelle!» Questo coerente discorso fu interrotto dall'entrata del cocchiere della diligenza per Rochester, il quale annunciò che il commodoro stava per partire. «Il commodoro?» disse lo sconosciuto balzando in piedi. «La mia carrozza! Posto prenotato, posto esterno! Pagate voi per il brandy! Solo pezzi da 5, non ho moneta, argento falso, soldi bucati, inservibili, meglio non averne!» E scosse la testa con aria d'intesa. Si dava il caso che anche Mr. Pickwick e i suoi tre compagni avessero deciso di fare a Rochester la loro prima tappa, e avendo notificato al loro nuovo conoscente che facevano tutti lo stesso viaggio, si accordarono per occupare il sedile posteriore sull'imperiale, dove avrebbero potuto sedere tutti insieme. «Issa!» esclamò lo sconosciuto aiutando Mr. Pickwick a salire sull'imperiale, con tanta energia da pregiudicare sensibilmente la gravità con cui l'anziano signore era solito muoversi. «Bagaglio?» chiese il cocchiere. «Chi? Io? Questo pacchetto di carta scura, nient'altro! Ho già spedito i miei bagagli per via d'acqua, casse di imballaggio inchiodate, grosse come case, pesanti da non credersi!» rispose lo sconosciuto, cercando di infilarsi in tasca un pacchetto di carta scura che presentava molti indizi sospetti di contenere una camicia e un fazzoletto. Pela orla, pela beira, pela areia fora, tarde inteira, pela borda, pedra, azul, marinho. Sto meditando, disse Mr. Pickwick, sulla strana mutevolezza delle cose umane. Già, capisco. Oggi si entra dal portone del palazzo e domani ti sbattono fuori dalla finestra. Filosofo, signore? Diciamo, un osservatore della natura umana, disse Mr. Pickwick. Anch'io. Molti lo sono quando c'è poco da fare e meno da guadagnare. Siete anche poeta? Il mio amico Snodgrass ha un temperamento molto poetico, disse Mr. Pickwick. Anch'io, disse lo sconosciuto, poema epico. 10.000 versi, rivoluzione di luglio, composto sul momento. Marte di giorno, Apollo di notte, un colpo di fucile e un accordo di lira. Eravate presente a quell'episodio glorioso? Chiese Mr. Snodgrass. Presente? Ma certo! Il lampo di una fucilata, il lampo di un'idea. Correvo in una bettola, scrivevo, tornavo indietro, scoppi e sibili, un'altra idea, bettola di nuovo, penna e inchiostro, fuori di nuovo, punta e taglio! Tempi gloriosi, signore! E voi siete sportivo? Aggiunse rivolgendosi improvvisamente a Mr. Winkle. Un poco, rispose questi. Bella occupazione, signore, bella occupazione. Cani, signore? In questo momento no, disse Mr. Winkle. Dovreste tenerne. Begli animali, intelligentissimi. Un mio cane una volta, un pointer, istinto straordinario, fuori a caccia un giorno. Entro in un recinto, fischio. Il cane si era fermato, fischio ancora, chiamo. Ponto! Inutile, fermo come un sasso. Lo richiamo. Ponto! Ponto! Non si muove. Inchiodato, lì! Fissavo un cartello, guardo anch'io, c'è una scritta. Il guardia caccia ha ordine di sparare a tutti i cani che trova all'interno di questo recinto. Non voleva passare! Cane meraviglioso! Cane di grande valore! Assolutamente. Un episodio non comune, disse Mr. Pickwick. Mi permettete di prenderne nota? Ma certo, signore, ma certo, 100 altri aneddoti su quell'animale. Bella ragazza, signore, disse poi a Mr. Tupman, che aveva gratificato con una serie di occhiate assai poco pickwickiane una fanciulla sul ciglio della strada. Molto bella, disse Mr. Tupman. Le ragazze inglesi non sono belle come le spagnole. Nobili creature, capelli corvini, occhi neri, forme dolcissime, soavi creature. Stupende. Siete stato in Spagna, signore? Chiese Mr. Tupman. Ci ho vissuto secoli. Molte conquiste. Conquiste? Migliaia. Don Bolago Fitzjig, grande di Spagna, unica figlia, donna Cristina, splendida creatura, mi amava alla follia. Lui era geloso, lei orgogliosissima, bell'uomo inglese. Donna Cristina, disperata, acido prussico, sonda gastrica nella mia valigia, lavanda gastrica, vecchio volare in estasi, consente alla nostra unione, le mani si uniscono, le lacrime scorrono, una storia romantica. Indubbiamente. «La signora si trova in Inghilterra adesso?» chiese Mr. Tupman, su cui la descrizione delle sue grazie aveva avuto un effetto profondo. «Morta, signore, morta!» disse lo sconosciuto, portando all'occhio destro lo scarso residuo di un vecchissimo fazzoletto di batista. «Mai ritrovata la sonda gastrica, minò la sua salute, la portò alla tomba». Piero Baldini ha letto Il Circolo Pickwick di Charles Dickens. Riduzione di Carlo Talini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.